giorno fa abbiamo festeggiato i santi del cielo e poi abbiamo, il giorno dopo abbiamo ricordato tutti gli altri, le altre anime dei defunti che nella Chiesa hanno un posto molto importante nel nostro cuore, ce l'hanno nel cuore di tutti gli uomini, no? Tutti hanno affetto per i cari che sono defunti, no? E questo è anche un segno del fatto che la vita non finisce, è un segno, se volete così, è una prova così umana. Una volta si diceva, i classi dicevano, l'argomento ad hominem, no? Cioè che può essere compreso dall'uomo comune. Noi continuiamo ad amare le persone che sono morte, che sono passate da questa vita, il che significa che può significare che continuano ad esistere, non si ama qualcosa che non c'è. E nella Chiesa questo affetto diventa un affetto di carità che passa attraverso la preghiera. E la Chiesa è convinta, siamo tutti noi convinti con la fede, che per esempio la Messa è il sacrificio di Gesù che viene ripresentato sull'altare e che noi, se lo offriamo, lo possiamo offrire per le anime dei defunti, per stare loro vicini, per aiutarli ad avvicinarsi a Dio, no? Noi abbiamo la convinzione che ci può essere una fase di purificazione anche dopo la vita che viene aiutata dalla nostra preghiera. Ma tornando alla festa dei santi, voi forse vi sarete chieste chi sono i santi, che cos'è la santità, forse non ve lo siete chieste, ma ce lo possiamo chiedere oggi, perché per esempio oggi quando io celebravo la messa questa mattina leggevo un brano del Vangelo che adesso vi rileggo, che sulla base del quale ci possiamo chiedere chi sono i santi e che cos'è la santità. È un brano del Vangelo di San Luca. Sapete che San Luca è considerato l'evangelista della misericordia, no? Tutti parlano dell'amore di Dio, i Vangeli, però San Luca in modo particolare, perché poi racconta alcune parabole che sono molto significative. Per esempio la parabola del figlio il prodigo la racconta San Luca, solo lui. E poi anche altre, per esempio queste due che racconta Gesù, che leggevamo oggi nella messa. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E quello che a noi oggi sembra già, perché siamo abituati così, conosciamo il Vangelo e per esempio ascoltiamo le parole del Papa che ci incoraggia dicendo che Dio perdona sempre, che non si stanca mai di perdonare. Allora noi siamo abituati a vedere in senso positivo che Gesù stia con i peccatori e mangi con loro, no? Perché poi qualche volta se noi ci sentiamo peccatori e anche può essere una cosa positiva che ci sentiamo così, allora possiamo pensare siamo invitati a mangiare con Gesù, lui viene a mangiare con noi, ci invita a pranzo, noi siamo a pranzo con lui, cioè è un segno da parte di Gesù di vicinanza, di amicizia, di non distanza, di insomma di affetto, di... mentre per i suoi critici era un problema, no? Era una cosa negativa, perché questi farisei, questi scribi si consideravano loro bravi, buoni, santi, perché facevano tutta una serie di cose esteriormente secondo loro giuste. E fra queste cose giuste c'era di non contaminarsi stando vicino a gente che loro consideravano peccatori. Infatti a noi colpisce anche il fatto che loro dicano, che il Vangelo dica tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo. Cioè per noi è una categoria che oggi, se noi andiamo per strada, non è che possiamo dire quello è un peccatore, quello no. Però per loro, per la società di quel tempo, alcuni erano tipizzati come peccatori, perché non facevano certe cose o ne facevano certe altre esterne, no? Che venivano considerate negative. Per esempio non osservavano il sabato, no? Chi non osservava il sabato, il riposo assoluto del sabato, era considerato un peccatore, no? Quindi è una cosa proprio esteriore, no? Però a noi fa bene, perché avendo noi un concetto del peccato molto più spirituale, molto più interiore, anche se a volte è qualcosa che si fa, no? A noi aiuta vedere Gesù che accoglie questi personaggi e li ascolta, parla con loro, li ascolta, dialoga e poi mangia con loro. E soprattutto nella cultura biblica, ma anche in tante altre zone del mondo e ovunque in un certo senso, invitare a casa, pranzare insieme significa entrare in amicizia, no? Far entrare nella propria casa vuol dire fargli entrare nella propria intimità, entrare nella propria famiglia. E Gesù, facendo questo, ci dice che quando noi ci sentissimo così lontani da Lui per come siamo, per come viviamo, ci dice: io invece sono vicino a te, io ti invito a pranzo, io pranzo con te. E allora non solo, ma Gesù non solo fa questo, poi crea questa, come dire, questo scalpore negli altri che agivano in un modo diverso. Il Vangelo è pieno di queste reazioni. Vi ricordate che sempre il Vangelo di San Luca è a pranzo con un fariseo che si chiama Simone e arriva improvvisamente una donna che è considerata peccatrice da tutti in modo pubblico e che comincia a piangere e a baciargli i piedi, quindi a lavarglieli e poi asciugarli con i suoi capelli. E il fariseo dentro di sé critica Gesù, dice: ma lui non si accorge di che donna è questa, no? Se fosse un profeta saprebbe, lo pensa dentro di sé. E a me piace considerare che poi questo Simone, sulla base delle cose che gli ha detto Gesù, si è convertito, perché se lo sappiamo quello che stava pensando è perché lui lo ha raccontato dopo, no? Quindi giudica Gesù per quello che fa o per quello che lascia fare, e invece è proprio quello che Gesù vuole, no? E lui non giudica le persone a seconda delle categorie, viene verso tutti, cerca tutti e apprezza moltissimo quando uno di noi va verso di lui con l'affetto e anche magari con il dolore per un peccato commesso che si manifesta in amore, no? Nel caso di quella donna si manifestava in lacrime, baci e profumo, no? Che versava sui suoi piedi. Allora Gesù, però tu Gesù che sei qui presente nell'Eucaristia e che ascolti la nostra preghiera, che ci parli, dici a noi le stesse cose che dicevi nel Vangelo, che ci inviti a pranzo perché siamo tutti peccatori, allora siamo tutti contenti di essere invitati a pranzo da te. Tu, di fronte a quei farisei e scribi che ti criticano, li vuoi anche loro convertire, aiutarli a capire come dovrebbero anche loro comportarsi con i peccatori, e allora gli racconti delle parabole. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pien di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Allora, e questa è un'immagine di Gesù bellissima, che poi dal punto di vista, come dire, dell'esperienza umana potrebbe anche essere obiettata, perché un pastore magari poco zelante può dire: beh, quella pecora che si è perduta, io lo sapevo, quella pecora lava sempre per conto suo, no? Allora che si arrangi, la lascio. E, oppure dice: fa freddo, tanto in fondo ne ho 99 nel recinto, pazienza, no? A volte umanamente ci potrebbe essere reazioni di questo tipo. E invece Gesù dà per scontato che il pastore ama le sue pecore, le ama totalmente e le ama ciascuna per come è, la chiama per nome. Per cui se le 99 stanno nel recinto, quindi sono già custodite, quindi no, non devono avere timore dei lupi o dei ladri, e quindi sono custodite, poi trovano il pascolo, trovano da mangiare, trovano anche il caldo, no, della stalla se è inverno, e quella sola che si è perduta invece ha bisogno di lui, e si immagina il pastore che le vuole bene e che avrà freddo, avrà paura, magari si è ferita. Questo è quello che il pastore, cioè è un'immagine, per cui io so che chi ha avuto l'occasione di conoscere dei pastori nella sua vita sa che il pastore vuole bene, no? alle pecore, alle mucche, anche se pascola mucche, insomma alle persone che lui custodisce, che lui nutre. E pensate che Gesù lo dice invece come immagine per ciascuno di noi, per un uomo, una donna, cioè una persona che dal punto di vista davanti a Dio ha anche un valore immenso, infinito, è dotata di un'anima immortale destinata all'eternità. Allora nei confronti di ciascuno di noi Gesù ha quell'amore e anche molto di più. È molto bello sentirsi amati da Dio in modo infinito e sapere che se per caso un giorno ci perdessimo, Lui ci viene a cercare, Lui non ci abbandona. E forse ciascuno di noi, pensando alla storia della sua vita, può anche ricordare alcuni episodi, alcuni momenti della sua vita in cui Gesù, magari attraverso altre persone, o attraverso qualcosa che accade dentro l'anima, un'inquietudine, per esempio, dopo aver raccontato queste parabole, poi San Luca parlerà farà quella parabola del figlio al prodigo, che quel figlio che se ne va e chiede l'eredità e poi la dilapida, e poi a un certo punto dentro di sé sente la nostalgia dell'affetto del padre, della casa del padre, e sente il bisogno di tornare. Quindi il Signore a volte ci cerca in questo modo, no? Facendoci percepire la nostalgia di Lui, no? Altre volte attraverso una persona cara, un amico, e la parola di un sacerdote, la parola del Papa, no? Quante persone sono state, i sacerdoti che fanno i confessori lo sanno, sono state incoraggiate dalle parole del Papa, disse nei primi Angelus, quando parlava di questo, no? Diceva, incoraggiava le persone a tornare a chiedere perdono al Signore. E questo è stato un modo attraverso cui Gesù ha cercato tante pecore smarrite e le ha riportate nella sua casa. Noi dobbiamo dire, Gesù, ti ringraziamo di queste parole, perché ci possiamo appoggiare su queste parole, ci possiamo riposare su queste parole, possiamo sapere che tu consideri ciascuno di noi, forse molte volte al giorno, come la pecorella smarrita da venire a cercare. Tu ci cerchi molte volte al giorno, ci cerchi molte volte nella vita. E poi che cosa fai? Come buon pastore ci trovi e poi ci carichi sulle spalle. E poi che cosa accade nel cielo? È molto bello, perché queste parabole fanno vedere anche il ritorno di ciascuno di noi quando come peccatore torna da Gesù e dice perdonami Signore, perdonami Gesù, e voglio riprendere l'amicizia con te per una piccola cosa o dopo un lungo periodo di distanza. E è bello perché vediamo da parte tua che sentimenti hai. Cioè, noi sappiamo per esperienza che, perlomeno si può dire che molti hanno questa esperienza, che il ritorno da Gesù, il chiedergli perdono, il ricevere il suo perdono, ci dà molta gioia. Ma Gesù in questa parabola dice che c'è più gioia nel cielo. Una volta il Vangelo diceva più gioia in cielo per un peccatore convertito, tanto che un autore contemporaneo scelse questa frase per il titolo di un suo libro, no? Un suo libro sulla confessione, un autore contemporaneo che voi conoscete. Adesso poi hanno cambiato la traduzione, quindi l'autore contemporaneo dovrà nel caso cambiare titolo, no? Perché dice, io vi dico, ci sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. In un certo senso forse Gesù ci vuole dire, ma i 99 giusti non ci sono, non esistono, siamo tutti peccatori, è un bel recinto con 100 peccatori, no? Tutti pecorelle smarrite che poi vengono radunate dal Signore, quindi, e soprattutto con gioia sua. Cioè, quindi quando noi avessimo un po', e a tutti capita, di avere un po' di resistenza a tornare dal Signore a chiedere perdono, dobbiamo pensare, sì, io avrò gioia nel ritrovarlo e nel ricevere il suo perdono, ma soprattutto sarà contento lui e tutto il cielo che fa festa, no? Vi immaginate un cielo, è difficile immaginarsi il cielo, no? E a volte ce lo si può immaginare come uno stadio, con una grande vittoria, tutti contenti, tutti che sventolano le bandiere. E lì, nell'arena, o sul prato verde, o sulla pista di atletica, siamo noi che stiamo vincendo la gara, perché abbiamo chiesto al Signore perdono, perché siamo stati ripescati da Lui, perché e arriviamo soli come il maratoneta, Forse voi avete visto qualcosa, succede che nelle maratone olimpiche il maratoneta arriva da solo, no? Entra nello stadio, e quindi tutto lo stadio esulta per questo maratoneta che sta per vincere la gara. Qualcosa del genere accade quando noi chiediamo perdono a Gesù. Poi adesso questo magari ci imbarazza, cioè come tutto il cielo sa i fatti miei, no? No, penso di no, però esteriormente vede, il Signore solo sa, è molto discreto il Signore, è molto riservato, no? Però il Signore, cioè tutto il cielo vede che Gesù è contento e che noi siamo contenti, allora tutti fanno festa. Il cielo stesso, cioè i santi del cielo, è tutta una grande festa, una festa continua, tutta una festa. Poi loro conoscono anche tutte le nostre sofferenze, tutti i nostri dolori, pregano per noi. È un bel mistero perché c'è una gioia infinita e allo stesso tempo sono consapevoli anche dei problemi che ci sono sulla terra o che dei problemi che ciascuno di noi ha. No? Pensate ai nostri cari, pensate alla Madonna che è nostra madre, pensate ai nostri santi protettori, quelli di cui portiamo il nome, che ci seguono da vicino e che quindi ai nostri angeli custodi a cui noi possiamo chiedere tanti aiuti. Loro sono sempre in festa, sempre gioiosi, sempre felici, però consapevoli delle nostre sofferenze e ci aiutano, no? E dopodiché, meglio, Gesù usa un'altra parabola, no? È come se non bastasse, dice, oppure quale donna se ha 10 monete e ne perde una? Questo è l'antico brano del Vangelo, prima la traduzione diceva 10 dramme, col termine tecnico, solo che adesso nessuno sa più cosa sono le dramme, allora hanno tradotto monete, e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova. E dopo averla trovata chiama le amiche e le vicine e dice rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto. E probabilmente è una moneta molto costosa, per cui se uno perde qualcosa, anche se dice il proverbio popolare che la casa nasconde ma non ruba, e qui cercando bene uno può ritrovare quello che ha perduto. Però appunto è pensabile, cioè in una società in cui le donne si parlano perché escono per strada, cioè aiuto amica mia, ho perso una moneta, come facciamo, no? È una società anche povera dove appunto perdere una moneta ha un valore, no? E allora poi dice l'ho trovata, no? Anche a noi succede a volte, no? Quando qualcuno di noi perde il cellulare, per esempio, perde il cellulare e poi dove l'ho lasciato? Allora, poi è capitato una volta di aiutare un altro sacerdote che aveva perduto il cellulare e non sapeva più che fare, ed ecco, aspetta un attimo, ti chiamo io. E in effetti, a volte chiamarlo può essere, se non l'abbiamo messo così in silenzio, può essere utile. Infatti suonò in un ufficio postale dove lui l'aveva appoggiato e così l'abbiamo ritrovato, no? E, oppure qualche volta qualcuno si raccomanda ai santi del cielo che lo aiutino a ritrovare qualcosa che abbiamo perduto, no? Una volta mi ricordo una signora che era molto che fu scippata della sua borsa, cosa che purtroppo succede, e in quella borsa aveva alcune cose che molto care, molto intime, no? La sua agenda su cui annotava alcune cose molto personali, e poi un libro che amava tanto, che era la storia di un'anima di Santa Teresina, no? Teresa, ecco. E allora, e questo accadde pochi giorni prima della proclamazione che Giovanni Paolo II fece di Santa Teresa di Lisieux come dottore della Chiesa, una fanciullina che è morta giovane, che ha avuto una dottrina spirituale molto bella e che il Papa ha proclamato dottore della Chiesa, ha insegnato alla Chiesa la piccola via della santità, così. Allora questa signora, quando ha visto che c'era questa cerimonia alla TV, no, si proclamava la sua santa preferita dottore della Chiesa, ha chiesto a Santa Teresina il favore di riavere quella borsa, no? E in effetti, proprio durante la cerimonia, suona alla porta uno sconosciuto su una grande moto con un casco per cui non lo si conosceva, scende il marito ad aprire e è per caso vostra questa? E dice sì, grazie, attenda un attimo, invece questo centauro sconosciuto se ne va con un rombo. Qui mistero, no? Chi sarà? Un arcangelo? Oppure semplicemente un centauro che ha trovato la borsa buttata in una siepe e l'ha restituita. Quindi grande felicità di aver ritrovato la borsa con quello che a cui teneva di più, no? E, ecco, quindi di fatto quando ritroviamo qualcosa di molto caro, noi siamo contenti e lo diciamo alle persone con cui abbiamo condiviso invece la sofferenza della perdita, no? Ma questo Gesù lo prende, questi esempi della vita quotidiana, per dire molto di più in cielo. Il cielo è contento, così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. C'è gioia nel cielo. Allora capiamo come mai c'è gioia nel nostro cuore, eh? Se per caso in questa, anzi evidentemente nella Chiesa Cattolica abbiamo questa bellissima dono di Dio della, anche del sacramento della penitenza, quindi anche il sacerdote è molto contento, no? Quando vede che Gesù ha ritrovato una pecorella smarrita e l'ha fatta ritornare a casa, no? Ritornare nell'ovile. Quindi è una gioia di tutti, no? Di Gesù, degli angeli, dei santi, della persona che ritorna e nel caso della confessione anche del confessore. Allora voi vi potreste chiedere, ma questa bellissima visione che poi appunto quando Gesù diceva sono venuto per i peccatori, non per i giusti, no? Allora noi potremmo dire, beh, se io sono peccatore vuol dire che Gesù è venuto per me, se io sono giusto allora non rientro, ma è la verità, nelle persone che Gesù è venuto a incontrare, a salvare, in realtà Gesù in questo modo ci sta dicendo sono venuto per tutti, perché tutti sono peccatori. E allora, quindi noi, quando appunto ci domandiamo, abbiamo fatto all'inizio del mese di novembre, abbiamo festeggiato la festa di tutti i santi, ci domandiamo che relazione ha questo essere peccatori con il fatto di essere chiamati tutti a essere santi. Che relazione ha? Se sono peccatore, come faccio a essere santo? E nella Chiesa c'è questa convinzione che nasce dal Vangelo che i santi sono peccatori. Peccatori che si convertono, peccatori che tornano a Gesù. E per esempio, San José Maria diceva di sé: sono un peccatore che ama Gesù Cristo. Il Papa Francesco dice: sono un peccatore che Dio ha guardato. In effetti, anche il Papa Benedetto XVI, quando era cardinale e è stato canonizzato il fondatore dell'Opus Dei, il cui messaggio è soprattutto questo, che tutti sono chiamati alla santità nel mondo, lui diceva queste parole molto interessanti, no? Ed efficaci. Diceva: in questa luce, diceva, mi sembra che anche se il velo della discrezione ci nasconde tanti dettagli, tuttavia, dai piccoli accenni che ha fatto prima, risulta che si può applicare a José María Escrivá una cosa che dice la Sacra Scrittura di Mosè: parlare con Dio come un amico parla con un amico. E questo apre le porte del mondo perché Dio possa farsi presente, operare e trasformare tutto. In questa luce si capisce meglio che cosa significa santità e vocazione universale alla santità. Conoscendo un po' la storia dei santi, diceva Cardinale Ratzinger, sapendo che nei processi di canonizzazione, quando la Chiesa cerca di studiare la vita di una persona che si è manifestata come santa, si cerca la virtù eroica, abbiamo quasi inevitabilmente un concetto sbagliato della santità e diciamo non fa per me. Siamo portati a pensare perché io non mi sento in grado di realizzare virtù eroiche, è un ideale troppo alto per me. La santità allora diventa una cosa riservata ad alcuni grandi di cui vediamo le immagini sugli altari e che sono tutt'altro rispetto a noi normali peccatori. Ma questo è un concetto sbagliato di santità, una percezione errata che è stata corretta, e questa mi sembra il punto centrale, proprio da José María Escrivá. Virtù eroica non vuol dire che il santo fa una sorta di ginnastica di santità, qualcosa che le persone normali non riescono a fare. Vuol dire invece che nella vita di un uomo si rivela la presenza di Dio, cioè si rivela quanto l'uomo da sé e per sé non poteva fare. Forse in fondo si tratta piuttosto di una questione terminologica, perché l'aggettivo eroica è stato interpretato male. Virtù eroica propriamente non significa che uno ha fatto grandi cose da sé, ma che nella sua vita appaiono realtà che non ha fatto lui, perché lui è stato trasparente e disponibile per l'opera di Dio. O con altre parole, essere santo è nient'altro che parlare con Dio come un amico parla con l'amico. Questa è la santità. Potremmo dire come una pecorella smarrita che viene ritrovata dal pastore, parla con il pastore, essendo noi la pecorella possiamo parlare, e gli diciamo: ti ringrazio che sei venuto a cercarmi, ti ringrazio che mi hai trovato. E ti ringrazio che mi porti sulle tue spalle, ti ringrazio che mi curi le ferite. Essere santo non comporta essere superiore agli altri, anzi, il santo può essere molto debole, con tanti sbagli nella sua vita. La santità è questo contatto profondo con Dio, farsi amico di Dio e lasciare operare l'altro, l'unico che può realmente far sì che il mondo sia buono e felice. Quindi in questo senso possiamo mettere insieme i due concetti, eh? Quindi il peccatore che torna a Dio, che gli chiede perdono tante volte al giorno, in realtà questa persona è sulla strada della santità, e che comincia e ricomincia fidandosi del fatto che Dio ci ama perché siamo suoi figli, perché lui ci ha creati, perché lui ha dato la sua vita per noi. Non ci ama perché ci comportiamo bene, ci ama e in questo modo ci aiuta, se lo lasciamo agire, a comportarci bene. In questo senso possiamo anche affidare la nostra vita alla Santa Maria, no? La nostra madre, noi la chiamiamo proprio così, no? Santa Maria, e quindi ha un nome bello come il nostro, e noi aggiungiamo questo aggettivo santa, e lei che è nostra madre ci potrà aiutare a farci ritrovare da Dio quando siamo pecorelle smarrite, a farci prendere sulle sue spalle, a tornare a Lui con tutto noi stessi, sapendo che Lui così è contento.